Now that you know the Italian for all those items, let's practice the words by asking for them. Lorenzo said, La signorina non ha il coltello. The easy way to say it would be, Scusi, non ho il coltello. But let's practice a more elaborate phrase. Scusi, può portare un coltello? Excuse me, can you bring a knife? Listen again and repeat. Scusi, può portare un coltello? In this activity, you'll be told what you haven't got. For example, Non ha la forchetta. So in the pause, ask for it like this. Scusi, può portare una forchetta? After you hear the correct answer, repeat it. Cominciamo. Non ha la forchetta. Scusi, può portare una forchetta? Non ha il bicchiere. Scusi, può portare un bicchiere? Non ha il cucchiaio. Scusi, può portare un cucchiaio? Non ha il tovagliolo. Scusi, può portare un tovagliolo? You may also want to ask for some condiments that are not on the table. For example, the salt. Il sale. Try to ask for it now and then repeat the answer. Scusi, può portare il sale? And how about sugar? Lo zucchero. Ask for the sugar. Scusi, può portare lo zucchero?